Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ovviamente anche all'interno della scuola, come dovunque, ci saranno dei contagi. Però di nuovo lo dico agli studenti e alle famiglie, evitiamo di portare il virus dentro la scuola. Noi ci occupiamo della possibilità e stiamo riuscendo che il virus dalla scuola non esca. Però evitiamo di portarcelo dentro. La raccomandazione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri, in particolare agli studenti, ai ragazzi e alle ragazze, in questa fase così delicata di contenimento, di tentativo di contenimento di questa impennata dei contagi anche da noi, non come in altri paesi d'Europa, ma insomma anche da noi lo sapete che stanno man mano crescendo da varie settimane consecutive. Quindi dice Arcuri ai ragazzi: mi raccomando, evitiamo di fuori che vi siano i contagi, ma anche di portarli dentro la scuola. Questo il giorno dopo e che è stata resa obbligatoria a partire da oggi, appunto, la mascherina presidio, purtroppo non piace a nessuno, ma comunque inevitabile e necessario. Ne parleremo, così come parleremo dell'annuncio oggi di Conte. Noi ne avevamo parlato ieri col vicepresidente della Federazione dei Medici di Medicina Generale, dei test rapidi che stanno arrivando nel Lazio, dentro direttamente gli studi dei medici, e Conte ha annunciato che saranno distribuiti 5 milioni di questi test rapidi per i medici di famiglia. Ne parleremo con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. E poi, a proposito del coordinamento tra governo e regioni nel decidere quali saranno le prossime misure del prossimo DPCM, sentiremo il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Molte altre cose per i vostri commenti lo sapete: pagina Facebook di Effetto Notte, oppure c'è il numero per i WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Partiamo come sempre con la sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: ancora in crescita i contagi, 22 i morti. La Campania è la più colpita e sulle code per i tamponi. Conte annuncia al via il bando per 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia. L'incontro governo-regioni, il ministro Boccia ai presidenti dice: prendiamoci questa settimana per chiarire meglio gli aspetti che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Di Maio al Sole 24 Ore, nella prossima legge di bilancio dice: l'obiettivo è rendere strutturali i fondi per l'export stanziati con l'emergenza Covid. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale: donne e giovani pagano il prezzo più alto per la pandemia. Il dibattito politico rovente negli Stati Uniti: Trump rifiuta il duello virtuale, non sono contagioso, dice, il presidente pensa a un comizio. Intanto Biden vola nei sondaggi e la presidente della Camera Pelosi evoca lo spettro del 25esimo emendamento per la rimozione di Trump. Il Nobel per la letteratura 2020 va alla poetessa americana Louise Gluck, ha vinto il Pulitzer nel 1993. Partiamo quindi dai dati aggiornati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Continuano a salire i contagi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458, con 22 morti. Tornano ai livelli di inizio aprile i contagi quotidiani da Covid nel nostro paese. Nelle ultime 24 ore c'è stata una nuova impennata con 4.458 casi a fronte di un numero record di tamponi effettuati, oltre 128.000. Si registrano anche altri 22 decessi. Con 757 nuovi contagi, la Campania si conferma la regione più colpita, seguita da Lombardia e Veneto. Il governo intanto cerca di correre ai ripari per risolvere il problema delle lunghe code che si sono formate in questi giorni nei drive-in e nei centri dove è possibile effettuare i tamponi. Il premier Conte fa sapere che si sta concludendo il bando per la fornitura di 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia. In Sardegna invece il TAR ha sospeso l'ordinanza della regione che impone test obbligatori per chi arriva sull'isola, una pronuncia che però non ha effetto sulla proroga dell'obbligo fino al 26 ottobre, firmata martedì dal governatore Solinas. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per parlare della situazione Covid attuale e dell'annuncio di Conte, come vi dicevo, sarà ospite la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa tra poco in questa puntata. E in questo contesto di numeri sempre crescenti, importante è una campagna efficace di vaccinazione contro l'influenza. Regioni in ordine sparso sulla campagna vaccinale contro l'influenza. Nel Lazio i medici di famiglia sono ai nastri di partenza, in Puglia la distribuzione ai medici inizia oggi, le Marche avvieranno le somministrazioni ai pazienti il 15 ottobre, il Veneto il 12. In Lombardia, sotto accusa nei giorni scorsi per i ritardi dell'approvvigionamento, l'offerta di vaccini è coerente con il fabbisogno e probabilmente superiore a quella che sarà la vaccinazione effettiva. Lo ha detto il direttore generale dell'assessorato al welfare della regione, Marco Trivelli. Complessivamente in questo momento l'Italia può contare su 17 milioni e 800 mila dosi, spiega Walter Ricciardi, professore di igiene dell'Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute. Per quanto riguarda quelle disponibili nelle farmacie, aggiunge, il Ministero sta prodigandosi. Lo scorso anno si sono vaccinate, acquistando il vaccino in farmacia, 900 mila persone. Di certo non ci sarà per tutti gli italiani, che però quest'anno saranno difesi anche da mascherine, igiene e distanze. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'incontro governo-regioni, il ministro Boccia ha detto ai presidenti delle regioni: prendiamoci questa settimana per chiarire meglio gli aspetti che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Capiremo anche quali sono questi aspetti col presidente della Liguria Giovanni Toti, che sarà ospite tra poco qui a Effetto Notte. Intanto in Europa grande preoccupazione in Germania, con 4.000 casi registrati nelle ultime 24 ore. Il ministro della Salute tedesco parla di comportamento ignorante a Berlino, tra matrimoni, focolai, raduni illegali nei parchi e feste. Da un sondaggio emerge che oltre la metà dei tedeschi non si attiene più alle restrizioni. Va ancora peggio nel Regno Unito, con oltre 17.540 nuovi casi, e in Francia sempre intorno ai 18.000 nuovi contagi al giorno. Ora negli Stati Uniti, dove la speaker della Camera, presidente della Camera Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25esimo emendamento della Costituzione americana, ventilando la possibilità che Donald Trump non sia più in grado di esercitare i suoi poteri e chiedendo di conoscere le sue reali condizioni. Questo mentre al posto del prossimo confronto televisivo tra Trump e Biden potrebbero esserci due comizi separati. Ne parleremo con il nostro corrispondente negli Stati Uniti, e proprio adesso vedo una notizia che vi do in assoluta presa diretta, mentre la vedevo con la coda dell'occhio. Il Regeneron, cioè il cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali usato da Donald Trump contro il Covid-19 e da lui promesso gratis a tutti, è stato sviluppato con cellule derivate da tessuto fetale, cioè di feti, tessuto di feti, una pratica che il presidente ha ripetutamente condannato. Lo scrive il New York Times. Nel giugno del 2019 l'amministrazione Trump aveva sospeso i fondi federali per gran parte di queste nuove ricerche scientifiche che utilizzano tessuti fetali derivati da aborti. C'è l'allarme del Fondo Monetario Internazionale: la crisi innescata dal coronavirus ha un impatto maggiore sulla mobilità delle donne e dei giovani. Questo richiede politiche mirate per prevenire un aumento delle disuguaglianze, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale citando nuovi studi che indicano come i lockdown tendono ad avere un effetto più ampio sulla mobilità delle donne rispetto a quella degli uomini, soprattutto con la chiusura delle scuole. Questo suggerisce che le donne hanno un carico sproporzionato nel prendersi cura dei bambini, carico che potrebbe mettere a rischio la loro opportunità di occupazione. Gli studi suggeriscono che a pagare un caro prezzo sono anche i giovani, che sono economicamente più deboli perché generalmente hanno un reddito da lavoro e occupazioni meno stabili. Di nuovo in Italia, il governo al lavoro per sostenere la ripresa, nelle parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio, ospite dell'evento digitale del Sole 24 Ore, il Financial Times. Rendere strutturali i fondi per l'export stanziati con l'emergenza Covid. E questo è l'obiettivo da perseguire con la prossima legge di bilancio, dice il ministro degli esteri Luigi Di Maio, chiudendo la 3 giorni Made in Italy di Restart organizzata dal Sole 24 Ore e Financial Times. L'export va sostenuto, spiega Di Maio, per il rilancio dell'economia bisogna guardare oltre l'emergenza. Nel rilanciare la crescita, in particolare attraverso l'export, dobbiamo guardare oltre l'emergenza e concentrare i nostri sforzi su una crescita che sia inclusiva, sostenibile e più resistente a quelli che sono gli shock esterni. Il ministro degli esteri dice no a tensioni tra imprese e istituzioni, le risorse del recovery fund da investire devono essere l'occasione per unire il mondo produttivo e il mondo istituzionale, sottolinea Di Maio. Bisogna lavorare insieme sui progetti, puntualizza, per fare in modo che 210 miliardi del recovery fund siano spesi in maniera concreta e veloce. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca al Consiglio Superiore di Magistratura, procedimento disciplinare in corso nei confronti di Luca Palamara al centro di uno scandalo tra trattative per le nomine degli uffici giudiziari e corruzione. Per lui è stata chiesta la sanzione più severa. Per comportamenti di inaudita gravità, la Procura Generale della Cassazione chiede di radiare dall'ordine giudiziario Luca Palamara, il magistrato romano, già presidente dell'ANM, imputato a Perugia per corruzione. Nel procedimento disciplinare in corso davanti al Consiglio Superiore della Magistratura si chiede per lui la massima sanzione prevista perché l'incolpato, ha scandito il PG Gaeta, ha tentato di condizionare la nomina ai vertici della Procura di Roma, l'ufficio più importante del paese. A lui si contesta inoltre anche un'opera sistematica di denigrazione, ha scandito il referente dell'accusa nella requisitoria verso alcuni colleghi. L'ex PM romano Palamara è stato già sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I viaggi di Radio 24. Resiste e reagisce l'industria marchigiana che, oltre al contraccolpo della crisi, sta ancora risentendo del terremoto che nel 2016 ha colpito le province di Ascoli, Piceno, Macerata e Fermo. La rete tra imprese ha funzionato per i distretti manifatturieri marchigiani, ma anche per il Molise, che ha così fatto fronte al boom dei consumi di pasta. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, ora i distretti marchigiani affrontano a viso aperto anche il Covid-19, non solo con un monitor mensile sull'economia, in cui gli open data e l'economia della conoscenza vanno in aiuto dei distretti, da quello delle calzature di Fermo alla meccanica fabrianese, al legno e mobili di Pesaro ai nuovi tecnologici. Un progetto di Regione Camera di Commercio mensilmente si misura al polso delle imprese. Certo, in base all'Istat, il 75% di quelle marchigiane ha dichiarato una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020. Un 6% delle imprese conferma performance stabili e l'export cala del 9,5%, ma le imprese marchigiane hanno saputo fare rete con il protocollo per la protezione civile sperimentato durante il terremoto e attivato a livello nazionale anche per i presidi sanitari durante l'emergenza Covid, come spiega Diego Mingarelli, presidente di Piccola Industria Marche Nord, titolare della Diansen SRL di Sassoferrato, prodotti per l'edilizia sostenibile, e vicepresidente per Europa, sviluppo e coesione territoriale, resilienza PGE. È discutibile che la nostra regione sia una di quelle più colpite. Dei nostri 9 distretti, solo 2 hanno migliorato la loro dinamica dell'export, e ancor più in una regione che ha tanta piccola media industria. Far rete è fondamentale, perché da soli gli imprenditori rischiano di non farcela. E anche in Molise prevale la voglia di fare rete per reagire all'impatto economico della pandemia, puntando sui distretti del cibo per dare linfa al distretto di Fara, della Valle del Biferno, con i consumi di pasta e la produzione moltiplicati durante e dopo il lockdown. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al Nobel per la letteratura. È stato assegnato alla poetessa americana Louise Gluck per la sua inconfondibile voce poetica che, con austera bellezza, rende universale l'esistenza individuale. Così si legge nella motivazione. Gluck ha 77 anni, è newyorkese, nel 1993 ha vinto il premio Pulitzer. Tra le raccolte che l'hanno fatta paragonare a Emily Dickinson, Il trionfo di Achille, The Wild Iris e Averno, poi la conosceremo un po' meglio nel corso di questa puntata. Per chiudere lo sport, ciclismo maschile, il francese Arnaud Demare ha vinto allo sprint la sesta tappa del 103° Giro d'Italia di ciclismo, da Castrovillari a Matera, lunga 183 km. Il portoghese João Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. E poi, per quanto riguarda il Covid e il calcio, dopo i test di ieri ad Appiano Gentile sono risultati positivi all'Inter anche Nainggolan e Gagliardini. Domani l'esito del secondo tampone, ancora positivo anche Ibrahimovic, mentre al Napoli la situazione starebbe tornando alla normalità. La procura della FIGC indaga sugli juventini che hanno lasciato la quarantena. Poi c'è un positivo anche nel team Mercedes per quanto riguarda l'automobilismo. Ad annunciarlo è stato lo stesso team campione del mondo impegnato nel weekend di Formula 1 a Nürburgring in Germania. La persona positiva è in isolamento e non si tratta però di piloti. Direi di chiudere qui questa sintesi della giornata, già molto lunga, per cominciare tra pochissimo ad approfondire i temi con gli ospiti. Torno ratta come la folgore. Strade in diretta. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento sulla 22 del Brennero. Ancora code per lavori tra Affi e Alavio in direzione del confine di Stato. Sempre per lavori si procede incolonnati sulla 9 Milano-Como, tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione Milano. È tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchissimi di notizie, come sempre vi racconto nella sintesi della giornata, e poi alcune invece diventano tema di approfondimento insieme agli ospiti. Cominceremo tra pochissimo con il primo ospite. Intanto vi ricordo appunto che le notizie più importanti per quanto riguarda l'incontro governo-regioni, ne parleremo tra pochissimo con il primo ospite. L'andamento del coronavirus in Italia l'avete sentito, e poi l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sulle disuguaglianze, il fatto che la pandemia possa essere pagata soprattutto da donne e giovani. E poi questa notizia che avevo dato in presa diretta poco fa, appena arrivata, che il Regeneron, il cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali usato da Donald Trump contro il Covid-19 e da lui promesso gratis per tutti, è stato sviluppato con cellule derivate da tessuto fetale, una pratica che il presidente ha ripetutamente condannato, lo scrive il New York Times. Adesso restiamo invece sulle questioni italiane. Naturalmente lo sapete, ieri ne abbiamo parlato lungamente, che è stato prorogato sino al 31 gennaio dal governo lo stato di emergenza. Abbiamo anche spiegato in cosa consiste lo stato di emergenza, e poi è stato prorogato anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che era già in vigore con le norme anti-Covid e che però è stato prorogato con le stesse norme sino al 15 ottobre. E la novità è che però da oggi subito scatta l'obbligo della mascherina anche all'aperto, con tutte le specifiche di cui abbiamo parlato ieri lungamente. E, naturalmente sono decisioni che il governo sta cercando di prendere in coordinamento, come fatto anche nei mesi precedenti con le regioni. Il ministro degli affari regionali Boccia ha detto: il decreto legge approvato ha salvato gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio in scadenza, che scadeva proprio ieri a mezzanotte. Prendiamoci questa settimana, ha detto ai Presidenti di Regione, per affrontare tutti gli altri nodi che riteniamo necessari affrontare. Allora, intanto saluto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Buonasera, buonasera Toti. Buonasera, anzi forse buonanotte. Buonanotte, grazie della disponibilità. Tra l'altro ricordo che proprio oggi Toti è stato ufficialmente proclamato Presidente della Regione Liguria, che è poi al suo secondo mandato, no? Dopo la vittoria 20-21 settembre. Quindi complimenti ancora, Presidente Toti. Allora, a proposito di quello che diceva Boccia, che dice possiamo chiarire meglio gli aspetti nei prossimi giorni con le regioni che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Ieri l'ho vista piuttosto morbida sulla linea della mascherina obbligatoria anche all'aperto, guardi, dappertutto, però lei, quali sono altri temi che insomma ancora sono da approfondire, nodi da sciogliere? Ma guardi, c'è molto da approfondire, soprattutto ovviamente da portare avanti rapidamente tutti gli investimenti che stiamo facendo nel mondo della sanità, molti dei quali dipendono dal commissariato straordinario del dottor Arcuri, che come è noto è prolungato con lo stato d'emergenza fino alla fine di gennaio, quindi di fatto è il governo che sta in questo momento dando le carte su quel settore. Per quanto riguarda le altre misure, io le dico quello che ho detto al Presidente Conte, al Ministro Boccia e anche al Ministro Speranza. La mia regione non è mai stata contraria ad inasprire anche misure per contenere il Covid ove queste servano. Tenga presente che prima ancora che venisse promanato l'ordine di mascherina su tutto il territorio nazionale, nel centro storico di Genova già c'era, nel centro storico di Spezia già c'era. Quindi io dico che bisogna lasciare alle regioni e alle autonomie locali più in generale, anche ai sindaci, la possibilità di muoversi, se vogliamo convivere con il Covid, su singoli territori per singole esigenze. L'esempio che faccio tipicamente, voglio dire, su una spiaggia di Sestri Levante a quest'ora della sera con il cane, l'obbligo di mascherina è financo ridicolo. Nel centro storico di Genova domani sera, quando scatterà la movida, ci saranno migliaia di persone, è quanto mai opportuno. Quindi ci sono situazioni molto diverse che non possono essere trattate in modo uguale. Comunque lei, Presidente Toti, ha detto anche che è odioso intervenire sui poteri delle regioni, mi pare in un'intervista alla stampa. Ma questo proprio sì, perché è giusto che il governo dia delle linee guida nazionali, ma è altrettanto giusto che siano le regioni e addirittura i comuni a stabilire in quale aree della città. Oggi noi abbiamo sistemi di tracciamento molto sofisticati, sappiamo in quali quartieri, sappiamo addirittura in quali condomini ci sono cluster importanti di Covid. È per questo che si deve intervenire. Sappiamo quali comunità, in quale tipologie e modalità di contagio si diffonde la malattia molto spesso. Quindi intervenire con misure flat, lo abbiamo già provato, uguali per tutti, credo che sia, oltre che iniquo, inutile e dannoso per la nostra economia. Intervenire anche rigidamente, come abbiamo fatto a Spezia con il primo cluster di questo precoce autunno, chiudendo circoli ricreativi, chiudendo addirittura delle piazze al passaggio delle persone, perché era in quelle piazze dove si ritrovavano persone in un cuore di contagio molto importante, è quanto mai utile e opportuno. Non capisco per quale ragione il governo si ostini a voler in qualche modo decidere da Roma, lasciando meno poteri alle regioni, cosa peraltro che ritengo parzialmente illegittima, anziché dare delle linee guida e lasciare che vengano applicate sui territori. Un teatro all'aperto con 10.000 posti non è un teatro al chiuso con 50 posti e via dicendo. Quindi, Presidente Toti, insomma, c'è ancora un po' di strada da fare nei prossimi giorni per arrivare, perché poi dal 15 ottobre, quando scade questo nuovo DPCM, si prenderanno altre misure e dovrete deciderle insieme, insomma. Ma voglio augurarmi di sì, è stato inserito nel provvedimento del governo, in realtà, insomma, Cesarini, una norma che prevede che le regioni possano in realtà fare ordinanze sia restrittive sia ampliative di quanto decide il governo, purché d'intesa con il Ministro della Salute. Questo mi sembra tutto sommato un procedimento anche equilibrato. Senta, la situazione in breve, Presidente Toti, sul contagio di coronavirus in Liguria, che punto è? Ma guardi, in Liguria oggi vado a memoria, sono 150 casi, la pressione ospedaliera sostanzialmente inalterata, soprattutto fortunatamente non vi è grande passaggio tra le medie intensità di cura e le terapie intensive, che erano quelle che ci avevano mandato in crisi nella primavera scorsa ai tempi del lockdown. L'età media dei contagiati è molto più bassa di quella che allora, oggi noi non abbiamo decessi, abbiamo oltre 4.000 tamponi molecolari più almeno 400 tamponi rapidi per appunto tracciare i cluster più importanti. Direi che rispetto alla primavera scorsa abbiamo un'organizzazione molto più efficiente e la malattia sta facendo anche genericamente meno male, per molte ragioni combinate tra loro. Lei sa che si è insistito molto nei mesi scorsi e in particolare adesso sulla vaccinazione antinfluenzale, in modo da essere un po' più forti e anche di non rischiare di scambiare il Covid con un'influenza magari non normale. Sì. Però sa che anche la più forte polemica in questo momento riguarda la Lombardia, che si sarebbe mossa un po' in ritardo per approvvigionarsi delle dosi di vaccino. Come state voi? Perché mi pare che ci sia stato un boom di prenotazioni in Liguria, ma disponibili metà vaccini. No, ma in realtà non è disponibile metà vaccini, che noi siamo forse tra le regioni messe meglio, ne abbiamo ordinate più di 600.000 dosi su una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, quindi direi un numero molto elevato. Se tiene presente che la vaccinazione media in questi anni è stata intorno al 30%, noi contiamo di arrivare sopra il 50% ed avere per tutti le scorte di vaccina, questo è importante. Dopodiché è ovvio che le aziende le consegnano a rate, a tranche, e quindi talvolta capita che anche ordinativi opzionati arrivino in ritardo di qualche ora o di qualche giorno, questo può accadere. Vorrei stabilire e trasmettere un messaggio chiaro alla popolazione: l'influenza arriverà a dicembre, c'è tempo tutto ottobre e tutto novembre per vaccinarsi, non è che chi si vaccina prima ha un vantaggio o un premio, bisogna ovviamente farlo con grande disciplina e attenzione, ma non c'è nessuna fretta e non c'è nessuno che resterà senza. Per chiudere, Presidente Toti, sa che Walter Ricciardi, super consigliere del Ministro della Salute e professore ordinario di igiene all'Università Cattolica, ha detto in un'intervista: le regioni devono darsi da fare, altrimenti come Francia, Spagna e Gran Bretagna ci ritroviamo in 2-3 settimane. Dice: se non rinforziamo l'attività di testing con personale e tamponi, se non attrezziamo i servizi sanitari in vista dell'influenza, siamo nei guai. Dice: molte regioni però si sono addormentate e si è fatto poco e nulla. Lei ritiene che la sua Liguria si sia addormentata? Io sono stato ben sveglio, in Liguria siamo stati ben svegli, abbiamo aumentato i posti letto, le terapie intensive, il sistema di tracciamento, la nostra potenza informatica, abbiamo sperimentato per primo Immuni. Io credo che il governo abbia un po' dormito, non so se nella persona di Ricciardi o di qualche un altro, ma certamente se siamo in ritardo dai banchi di scuola fino alle assunzioni nel mondo della sanità, regole che abbiamo chiesto più volte ancora oggi, se lei pensa che non è ancora stabilito il valore legale del tampone rapido antigenico che ormai stiamo usando tutti quanti per fare i test in modo più rapido. C'è qualcuno che dorme, forse Ricciardi non se n'è accorto, ancora nel pieno sonno, insomma non voglio fare polemiche con un signore che è tutt'al più un consulente del ministro, però insomma certe frasi francamente non sono felici. Bene, invece le auguro un felice nuovo mandato allora, presidente Giovanni Toti, per ben la Liguria. Gentile, buon lavoro e buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte. Allora, ci fermiamo temporaneamente come sempre per una breve pausa di riflessione e di respiro. Per voi i messaggi al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo ascoltatore: assurdo adeguarsi a regole diverse ogni attraversamento di comune. Dice, quante regole diverse quindi per ogni 100 chilometri, no? A proposito di quello che diceva il presidente della regione Toti, che diceva non si può rendere tutto completamente omogeneo. Per il momento, vabbè, l'obbligo della mascherina riguarda tutta la nazione, obbligo della mascherina anche all'aperto, oltre che a chiuso come già era. Vediamo nei prossimi giorni, il prossimo DPCM, decreto del Presidente del Consiglio, scatterà il 15 ottobre, nel senso che scade questo già in vigore da mesi, il 15, con in più questa novità della mascherina obbligatoria all'aperto. Vedremo da lì che tipo di accordo raggiungeranno il governo e le regioni. Ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E lo sapete che se state ascoltando Effetto Notte, chiaramente siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberto Giordano, tutte le sere dalle 21 alle 22 a raccontarvi, dal lunedì al venerdì, le notizie più importanti, quello che succede in Italia e all'estero, e poi gli ospiti ad aiutarmi ad approfondire alcuni temi in particolare. Abbiamo appena parlato del confronto governo-regioni sulle nuove misure anti-Covid con il presidente della regione Liguria Toti. Adesso passiamo a restiamo sempre naturalmente su questo argomento. Sapete che vi ho detto all'inizio, come sempre, quali sono i dati aggiornati dal Ministero della Salute. Insomma, c'è un'impennata ancora di contagi anche nel nostro paese. Molto peggio stanno paesi intorno a noi come Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, però insomma diciamo che l'attenzione deve essere fortissima anche da noi. Da oggi, ve lo ricordo, ne abbiamo parlato anche prima, è scattato l'obbligo per la mascherina anche all'aperto, con quelle specifiche distinzioni. Abbiamo lungamente illustrato ieri, no? Se uno si trova da solo in montagna, in un sentiero, in un bosco, chiaramente, oppure se è una strada molto isolata e non c'è nessuno, la deve portare sempre con sé, ma la può abbassare, può non tenerla, e naturalmente se si fa attività fisica o se si va in bicicletta. Però scrive per esempio su WhatsApp al 349-238-6666 un'ascoltatrice, Maria, che dice: cara Roberta, come prima giornata direi che non si presenta tanto bene, ho fatto a piedi la strada dal posto di lavoro fino a casa a Brescia. Dice: lo sai quante persone ho incontrato con la mascherina sotto il naso, sul collo, attaccata al braccio? Uno ce l'aveva addirittura in fronte, dice, direi che era la maggioranza, e siamo a Brescia, dice, con tutto quello che abbiamo sofferto. Allora chiedo a Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, che ringrazio di essere nuovamente qui a Effetto Notte. Buonasera sottosegretaria. Grazie a lei, buonasera. Cosa si sente di dire per sottolineare l'importanza della mascherina? Anch'io stessa non la apprezzo, ma se è necessaria la porto, se è obbligatorio, se si può evitare, insomma, di arrivare di nuovo, tornare indietro a quei mesi tragici che abbiamo vissuto, no? Un altro ascoltatore dice: ma sapete che due ragazze in Germania sono svenute in un pullman perché avevano la mascherina. Certamente non è piacevole, però lei che cosa si sente di dire, sottosegretaria, a proposito? Che la mascherina è un sacrificio minimo rispetto ad altri molto più gravi, che eventualmente misure molto più severe che eventualmente il governo potrebbe trovarsi costretto ad adottare, e che comporterebbero anche, diciamo, delle penalizzazioni per il sistema paese molto difficili, no, da reggere, dopo che abbiamo per molti mesi dovuto chiudere, sospendere attività e attività economiche, movimenti delle persone. Quindi la mascherina viene considerata dagli esperti una tutela fondamentale che dà oggettivamente poco scampo al virus, nel senso che alla fine il virus esce o dalla nostra bocca e viene inalato dal naso della persona di fronte a noi. Quindi non è che bussa la porta, si presenta, entra dalle finestre, no, funziona così la trasmissione del virus. Quindi la mascherina è una cautela enorme, noi ci prenderemo un po' di tempo. Oggi gli esperti, anche nei giorni scorsi, prevedono 10-15 giorni per misurare se questa misura comincia a dare degli effetti sui numeri. In questo momento noi partiamo da un numero già alto perché, come è noto, cresce in modo esponenziale la diffusione del virus. Chiarissimo, quindi vedremo nei prossimi giorni, allora faremo un po' il bilancio. 10 almeno giorni per valutare. Senta, invece l'altra notizia importante di oggi è che il Presidente del Consiglio Conte ha dato sostanza all'iniziativa annunciata ieri dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale, a partire che diceva che presto nel Lazio a breve partirà questo progetto di test rapidi direttamente negli studi dei medici. Proprio ieri ne ho parlato qui in collegamento il dottor Pierluigi Bartoletti, vicepresidente della Federazione Italiana dei Medici. Sentiamolo, ne aveva parlato proprio qua ieri. Già in regione hanno accolto la nostra disponibilità che era già datava da luglio, quindi ci stiamo preparando da luglio perché insomma questo è il primo inverno e il primo autunno con questo virus nuovo che circola ed era prevedibile cominciasse a ricircolare nelle famiglie, il quadro adesso è questo, quindi abbiamo molti cluster familiari, quindi è chiaro che bisogna un po' cambiare strategia, questa cosa qui sarà fruibile. Anche la Regione ha confermato l'interesse e sta facendo adesso un bando per raccogliere le disponibilità e comporre un elenco degli studi medici dove sarà possibile effettuare questa indagine rapida. Io coordino anche nel Lazio le USCA, parla con uno che di questi tamponi ne ha fatti ormai da agosto, non io personalmente, ma i colleghi che stanno con me, circa 50.000. Diciamo che il tampone rapido rispetto al tampone molecolare ha dei vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che è immediato, quindi in mezz'ora c'è una risposta. Lo svantaggio, almeno in teoria, siccome è una tecnologia abbastanza nuova, potrebbe avere, diciamo così, all'inizio delle polemiche, dovrebbe avere falsi positivi o falsi negativi. Dai alla mano, decine di migliaia che abbiamo fatto, è un test sicuro. Questo ieri Pierluigi Bartoletti, vicepresidente della Federazione Italiana dei Medici. Oggi, dicevo, Conte ha dato questo annuncio. Presto 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia. Sentiamo anche questo passaggio. Si sta concludendo la gara per 5 milioni di test rapidi. Questi test saranno messi anche a disposizione dei medici di famiglia che ne faranno richiesta e quindi questo consentirà alla popolazione di affrontare le prossime settimane con minore ansia, perché ovviamente tutti quanti vorrebbero in questo momento, ai primi segnali diciamo di qualche preoccupazione, vorrebbero effettuare i test e in questo modo dovremmo poter affrontare meglio le prossime settimane, i prossimi mesi. Quindi un'ottima notizia, sottosegretaria Zampa, vediamo un po' quale sarà la tempistica, però nello stesso tempo la Federazione dei Medici di Medicina Generale sempre ha fatto un sondaggio e dice che nel 50% delle province italiane il medico di famiglia non è autorizzato a chiedere direttamente il tampone per i suoi pazienti, quindi ci sono norme diverse a livello di regioni, di province, addirittura di singole ASL che determinano una certa confusione. Immagino che provvederemo a cercare di coordinare e quindi di omogeneizzare le procedure dappertutto. Ci siamo abituati, diciamo, a una Babele che personalmente trovo davvero poco proficua. Ho avuto modo di dirlo anche oggi, io non penso che si possa andare avanti ignorando la questione che ognuno va per conto suo, non fa in un modo e in un altro, e la gente, non mi sembra che le persone stiano apprezzando questo modo di funzionare della sanità. Detto questo, e chiedo scusa, diciamo, per la nota polemica, ci sono anche regioni dove, per esempio, penso alla mia di regioni, ovviamente che conosco meglio, l'Emilia Romagna, ieri Bonaccini ha annunciato che ci sarà il test serologico nelle farmacie. È evidente che comunque più si interviene per tempo e quindi si riesce anche a isolare le persone che possono trasmettere il virus, questa è un'altra cosa fondamentale per ridurre la diffusione del virus, il tracciamento cosiddetto, e comunque certamente poter individuare le persone che magari, anche essendo asintomatiche, essere asintomatici non significa che non trasmetti il virus, lo trasmetti il virus, magari sarà più debole come alcuni sostengono nella trasmissione, ma a differenza della SARS, in questo caso il virus è trasmesso anche dagli asintomatici. Quindi più si controllano le persone, più se le si possono controllare, più grande la capacità quindi di verificare e andare a valutare, meglio è. Bisogna anche però che le famiglie abbiano, come dire, quella razionalità sufficiente a non spaventarsi di fronte al primo segnale, che ne so, di un mal di gola che magari hai preso perché c'è stato un cambiamento improvviso di clima, cosa che in questi giorni sta accadendo, o un raffreddore che è davvero un raffreddore. Credo che su questo ne discutevo oggi al Ministero, forse anche a livello di comunicazione bisognerà dare qualche istruzione in più, soprattutto a chi ha figli. Certo, per non spaventarsi molto. Subito. E comunque, certo, come diceva lei, di passare la giornata davanti a un drive-in. Infatti, no? Proprio auspichiamo che effettivamente questo annuncio di Conte sui 5 milioni di test rapidi che arriveranno a breve, ha detto, sia davvero a breve questo arrivo, perché, come ricordava, si sono registrate in varie città, davanti a vari drive-in per fare i tamponi, davanti a vari ospedali, code di ore, no? Quindi speriamo di non dover assistere più a questa situazione, perché veramente diventa complicato poi anche testarsi, farsi testare, averne voglia. E quindi tutto il contenimento del virus. Bene, la ringrazio ancora una volta, sottosegretario Sandra Zampa. Grazie buon lavoro. Buonasera. Grazie. Oh, invece c'è un ascoltatore che dice che bello, vediamo se ritrovo questo messaggio. Dice che è bello risentire la trasmissione dopo un mesetto e riascoltare l'ennesima intervista del moroso della conduttrice, il presidente della regione Liguria. Ma perché ha propinato proprio noi? Dice, ma vabbè, insomma, assicuro nessuna relazione. Ci siamo sentiti esclusivamente qualche volta qua radiofonicamente in collegamento. Lui e la sua vita privata, io naturalmente la mia, non ci siamo mai incontrati. Comunque, se a qualcuno piace così fantasticare, a tra poco. Strade in diretta. Una buona serata a tutti voi. Sulla 22 del Brennero si rallenta con code per lavori tra Affia e Labio in direzione del confine di Stato. Possibili disagi per un incidente sulla 8 Milano-Varese in prossimità di Lainate in direzione Milano. Ricordiamo che per lavori la 32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina in direzione Torino tra Susa Ovest e Chianocco. È tutto, buon viaggio e buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal. L'annuncio oggi, l'avete sentito, del Nobel per la letteratura 2020, assegnato alla poetessa americana Louise Glück, perché è l'ennesima donna in questi giorni ricchi di premi Nobel che viene premiata. Ieri abbiamo parlato delle due scienziate che sono state considerate rivoluzionarie, premiate con il Nobel per la chimica per aver riscritto il DNA. Nei giorni scorsi invece il premio per la fisica a tre scienziati, tra cui una donna, e oggi appunto anche il premio per la letteratura è assegnato a una donna che è Louise Glück. La motivazione l'avete sentita, ma insomma ve la traduco: per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale. La nostra poetessa, 77 anni, newyorkese, vive a Cambridge nel Massachusetts e insegna inglese allo Yale University. Nel 1993 ha vinto il premio Pulitzer e nel 2014 il National Book Award. Ma ne voglio parlare con il nostro Salvatore Carruba, grande esperto nonché conduttore qui a Radio 24 di Un Libro Tira l'Altro, vi ricordo, domenica alle 6:10 e poi la sera alle 22:30, il modo migliore per iniziare e chiudere la giornata di domenica con Salvatore. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera a tutti. Quindi questa è la motivazione, lei fra l'altro è una poetessa che dicono che anche porta nella sua poesia il trauma che ha sofferto, perché da giovane ha sofferto di anoressia, è stata molti anni in analisi. Parlano dei suoi versi come diversi semplici, diretti, dedicati alla natura, ai miti e alla famiglia, ma qualcuno l'ha paragonata anche a Emily Dickinson. Perché, Salvatore, dici un po' l'anima di questa... Ma perché l'anima è quella di una poetessa che riesce, diciamo, a superare molti vincoli di appartenenza, a partire da quello del genere, cioè veramente riesce a parlare a tutti, riesce a esprimere quelli che sono i sentimenti e la posizione nell'universo dell'individuo. E questo si vede anche nei richiami letterari. Per esempio, lei è molto attenta ai richiami della mitologia classica, ha dedicato diverse raccolte anche proprio a questo tema della mitologia classica rivisitata, cioè il fatto di tornare ai vecchi miti, ai miti eterni che hanno fatto la nostra cultura. Quindi da questo punto di vista sicuramente rappresenta una voce singolare, una voce originale, e purtroppo poco nota in Italia, perché in Italia è stata tradotta pochissimo da due coraggiosi editori, Dante Descartes e Pagano. E quindi sarà questa l'opportunità per conoscerla meglio. Lei infatti si è detta sorpresa e contenta di riconoscimento, evidentemente proprio perché non se l'aspettava, probabilmente non è una delle più note. Raramente forse viene dato il Nobel per la letteratura alla poesia, in questo momento c'è particolare bisogno forse, Salvatore? Infatti questo è stato molto interessante, perché l'ultima poetessa è stata la grande Szymborska, ma sono passate tra più di 20 anni, 25 anni circa, quindi tornare alla poesia di una donna tra l'altro è molto significativo. Sicuramente sì, credo che il richiamo della situazione attuale ci abbia giustificato questa scelta, non peraltro, ma perché la poesia, e in particolare proprio per quello che dicevo prima, la poesia della Gluck per i suoi richiami alla grande mitologia classica, anche è un po' un'ancora di salvezza per riflettere su alcuni valori universali ed eterni che meritano di essere sempre ricordati, anzi richiamati, proprio in tempi di grande incertezza come quelli in cui viviamo. Già, ben detto. Grazie Salvatore Carruba, grazie. Ciao Salvatore. Grazie a voi, arrivederci, buona serata. E buona poesia. Oh, e adesso è il momento di collegarci col nostro corrispondente degli Stati Uniti, Marco Valsania. Caro Marco. Buonasera. Perché qua c'è una campagna presidenziale, si voterà il 3 novembre prossimo, se tutto va bene, negli Stati Uniti, sempre più bollente con, intanto c'è stato il primo duello televisivo tra gli aspiranti vicepresidenti, l'uscente Mike Pence per quanto riguarda Trump, e poi la senatrice democratica Kamala Harris. Neanche appena stato riposto questo primo duello, è unico che già Trump dice: io sto benissimo, non voglio fare il duello virtuale prossimamente con Biden, perché era previsto che, visto che lui ha avuto il Covid e tuttora non sembra fuori pericolo, non si possono incontrare. Che succede, Marco? Ma sì, direi, per ricordarci a prima, molto poca poesia nella campagna elettorale americana, molte parole dure e anche di più forse. Ecco, cercando di riassumere brevemente solo quelli che sono i colpi di scena delle ultime ore, il duello, diciamo così, ha in superficie, diciamo, civile fra i due vicepresidenti, quello uscente, come ricordavi, Mike Pence, e la democratica Kamala Harris, appunto civile in superficie, perché diciamo i toni sono stati più così più moderati, le interruzioni diciamo così meno frequenti, ma comunque contrapposizioni pesanti su tutto, dalla pandemia all'economia, in particolare proprio la gestione della pandemia. Harris chiaramente ha incalzato Trump e Pence, dicendo che la loro gestione rappresenta il fallimento più tragico da parte di un'amministrazione nella storia americana. Pence ha risposto che non è così, e ha soprattutto sottolineato quelli che sono i meriti economici dell'amministrazione Trump, promettendo che se saranno rieletti ci saranno ulteriori miracoli economici. Però proprio, diciamo, appunto a ridosso di questa questo confronto è subito emerso che appunto Trump si è tirato indietro dal prossimo duello con Biden, dicendo che appunto non accetta un confronto virtuale prescritto dalla commissione sui dibattiti elettorali per appunto ragioni, diciamo, di prudenza sul Covid, visto che Trump è ancora malato, e quindi gettando così nel caos ulteriormente il prosieguo della campagna. Addirittura, Marco, ricordiamo che la Presidente della Camera, Nancy Pelosi, proprio oggi ha evocato il ricorso al 25° emendamento, che contempla il caso in cui un Presidente non sia più in grado di esercitare i suoi poteri, quindi di svolgere il suo incarico. Sì, esatto, il famoso 25° emendamento, che teoricamente autorizza alla rimozione per incapacità del Presidente, però diciamo occorre una maggioranza del gabinetto quindi del governo, dei ministri senior e del vicepresidente, quindi diciamo è difficile immaginarla francamente, a meno che è chiaro di rivelazioni shock. Ma va ricordata un altro sviluppo diciamo preoccupante delle ultime ore, cioè l'arresto in Michigan nell'ambito della tensione nella campagna elettorale, l'arresto in Michigan di 13 esponenti della milizia locale battezzata Wolverine Watchmen, che avevano preparato un piano e si erano addestrati per un piano per rapire il governatore democratico del Michigan, Gretchen Whitmer, una donna, e processarla in segreto, stile ISIS, ucciderla, uccidere altri politici che definiscono tiranni e, diciamo così, provocare una guerra civile nel paese. Incredibile, questo potrebbe essere il rischio, speriamo di no, ma insomma certamente i toni e anche le azioni a quanto pare non sono delle più rassicuranti. Per chiudere, l'ultimo colpo di scena, questo del Regeneron, questo cocktail sperimentale di anticorpi che sono stati usati per curare Donald Trump, scrive il New York Times, da lui promesso poi a tutti per curare tutti, che è stato sviluppato con cellule derivate da tessuto fetale, una pratica che il presidente ha ripetutamente condannato. Questo scrive il New York Times. Marco, vedremo, qui si va di sviluppi in sviluppi, di colpi di scena in colpi di scena, però qui ci dobbiamo lasciare purtroppo. Marco, grazie. Grazie intanto degli Stati Uniti. Ciao Marco, e ci risentiamo brevemente alle 22. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su aruba.it.